linea d'ossia dal legno. Cocoro in mano, ore gonfio, gli occhi gonfi, orecchie burenni, che vestono stocchi, labbra gonfi. Mozziconi e paroli, mozzonisciato, fiato, grossa mantice, mantice grosso, da parlare. C'hai un promone solo, dolirio, un solo polmone arrestò. La otto, mochio gai, consumato, stretti lacrime, lacrime grossi, dolirio, lacrime grossi, che pesavano un cantar, e ora manco non c'è. Perché per lacrime non c'è ricambio, non c'è pompetta che te ne porta ancora per beverare l'occhio. Per questo venni a ossia il figlio. Ossia soltanto può portare lacrime a stocchi secchi. Ma io ho bisogno dell'olio, perché angeli stasera, e domani ancora, e una settimana ancora, mese, un anno ancora. Piangere diverso, e come piangio ora, da come piansi ieri sera, perché sto venendo lì. Mi dissero di cuore tenero, sì, mi disse chi lo provò sto cuore, ce n'è una fedda, una nicola femmina, c'è una libra di cuore da spendere a mio favore. Vossia non mi conosce, dolirio. Io, che non so a vossia, invece, come non si potrebbe, chi non conosce, dolirio, un quartiere, eppure fuori da quartiere. Quante volte ho visto vossia passare per strada, e con che fatto finito non erano con vestiti di lingua in estate. E alle amiche a dire, a me stessa a dire, come elegante, come spavaldo dolirio, sogno sicuro, certo, che ossia mai se ne accorse dell'ammirazione e del mio rispetto. Ora che sogno che, ora che ossia ci parlo, ora mi rappresento. Mara mi chiamo, sono figlia di Cosimo Ragioneri e figlia di Elisa, sono moglie, e che bello che c'è dopo a te. Mi dicono che pure vossia ci bussò l'occhio, ma con rispetto e con il giglio in mano. Tutti adoriamo, tutti, tutti volevano, ma poi venne un caroso, storioso, cauteloso, genioso e sapigliò, e vossia, che rancore non ne porta, li benedisse e li protesse, con sa gente infami un vivo di sto quartiere. Ora che successe, chi fu, per questo, venne vossia Dolirio a domandare lacrime per questi occhi secchi. Ieri sera è sbagliato, tutte le persi, tutte le lacrime ho sparse, quando questi occhi visti, me padre, me ma visti, padre e madre visti, una camera e pranzo, riversi l'uno sull'altro, e tu da bacciantere, e tu col viso all'aria, nemmeno un ultimo abbraccio gli hanno concesso, e tu che si abbracciavano con le pie, e sangue. Quanto ce n'era sangue, tutto sto sangue, c'aveva un corpo dolirio, pareva vernice, e invece era sangue straziato, sangue sberziato, sangue appicchiato con le pie, ma mia vernice pareva, vernice rossa prima chieto, quando trasina a camera e pranzo, una fotografia, approntata per stupirmi, e mi stupì, e come, lo stupore fu un sussulto alla bocca dell'alma. e da bocca all'amma scattò una risata che mi scosse come una pertica mi scosse, risata che chiamò come una mula in cinote. E quando accava i riri, la nuvola piove lacrime, lacrime grosse gonfie d'olio che fecero stocchi sicchi. Perché sto in dolerio? Per smacchiare la vestina, nettarla della vernice rossa che la macchiò di sangue, perché Dolirio, quando scoppiò la bolla di stupore e la fotografia si presentò come era, e per intero si sbobinò il film della mia incoscienza. Allora io, Dolirio, sopra niente ma piai, come quello che rosa mi gettavo tra loro sul letto grande, e me su capo c'è durossi me pa, e mungevo della lena agrodolce di lei. Ma ora, sciato a lena, non ne nasceva più. Solo la vestina restò, da perdere del sangue. Poi vennero i vicini e dopo gli sbirri vennero. Ah, qualche sospetto? No. Avevano nemici? Manco uno. Aveva una donna, suo padre, una sola, ma immagini. Le risulta che sua madre, una vent'anni solo, suo marito ci aveva scamanato filo. E domande ancora, quante domande ancora? E risposte tutte, negative tutte. E chi è te? Io niente, faccio da lì. Ma se magari l'avessi saputo, perché dirlo agli sbirri? Che cosa avrebbero potuto darmi in contraccambio? Gli sbirri. Scasciù. Occasioni, giustizia, vendetta. Da loro. A che costo? E così, bocca rossuta, bocca cucita. Ma perché già lo sapeva? Già da allora sapevo che va bene la vossia e domanda la vossia. Che successe? Che fu? Che duca vossia mi può dare? Che duca vossia mi vuole dare? Io mi picchio perché ben a dire è giusto. Chissà. Venne a vossia Dolirio, col cuore in mano, e sta vestina in mano, e sta vestina io. La stendo innanzi a vossia. Voi sposate, che lo canna fare. Thank you. lavai, i camici estrai, il letto è rifatto, le lenzuola cambiate. Naccappatticamente c'era una camola. Nonostante, vince sacchetti, palline di naftalina. Domani lo porterò dal sarto, che gli farà un rambino. Sulla punta di una scarpa, che te vernici, trovai una macchia di vernice rossa, per me vernice rossa, che con una pezza strofinai, che a spazzo la sciacai, non veniva via. Ci passai un lucido per scappi, ho spalmato una pomata in gel, non se ne venne. Domani al vicino un anzino scapparo, lui certo saprà cosa fare. Venne Santino a portare a Chico che fosse sapi. Io, o se stamai, una sapevo sia. Per secondo c'è capretto d'olì. Abbottonato d'aglio e di prezzemolo e di pepe nero. Brasato nel vino bianco, viene montagna. A Bossia il capretto ci piace così, Dolly, come lo prepara donna Mira, vostra moglie. Io l'ho spiata. Quando è che lavo i piatti e le stoviglie? Quando è che avanza tavola con tuo vaglielino? Quando sminuzzo l'aglio e pelo cipolle, lei intanto prepara appetiti per Bossia. Io la spio. Lei non se ne accorge, Dolly. Io esagio a fare buone queste cose. Sono una spugna io e assorbo e mi impregno di tutto ciò che vedo, di chi tocca succede. Nessuno sospetta. Solo che Bossia dormì, mi faccio netta. Solo Bossia ci riconne che c'è intenzione, peraltro. Non c'è tradimento, né faccia farie. Io m'alleno per compiacere a Bossia, Dolly. Essere di supplenza, se donna Mira manca, come succede oggi. Essere pronta in tutto, quando Bossia comanda. Leonardo si venne a pigliare chi duca Bossia medesi, io ci consegnai come Bossia verissi. La coscia di capretto è netta, come che sai non so po'. Ciao, donai due giorni arrivi a diaffio chiacchieri. Quando andai a prenderla, c'era gnomoro d'rasso. Ce lo vuoi lavare? Ci disse. A mia che mi arresta i domefici. Ci disse. A compiacenza e delirio, chi già t'abbasta? E non ce la dai in balocchi, fitto. E non chiurivo il so e cavò la testa e mannetò la coscia. Venne Bastiano per le cose, ci disse che Bossia riposava, torna più tardi, prima di oscurare. Prima che Bossia l'assaggia, glielo voglio dire, chi sta è diversa da come a favo sciampieri, donna Mira e cuoca sopraffina, Bossia lavanta, con parenti amici né tavolati, ma io ho voluto aggiungere di mio. Quattro foglie d'alloro, tre di menta, e due rametti di rosa marina, e un sapore segreto, che se possi permettermi come ora manco ci rico, è così, resta un segreto. Chiamò la signora Cosciamonghieri, disse che il viaggio è andato bene, il treno è arrivato a Milano in perfetto orario. La picciriggia rumiò tutta nottata, era tranquilla e non si lamentava. Alla stazione c'erano i fiscicchi, disse donna Mira, che per ogni cosa i fiscicchi si misero a disposizione, le trattano come regina e principessa, ai da picciriggia. Oh, professore, anticipo la visita a domattina. Poi mi passò a vicino, che manco pareva fossi, cosa so, romannava fossi, e ci mandava un bacio, che io ora le rendo, ma con rispetto. Se fosse un'ave bisogno mia, io domattina verrei più tardi, fall'anno, i miei pai e ma ho prenotato una messa per l'armosa so. Io mai domandai a vossia, perché lo so, sogno sicura, che vossia ci pensa, se non ci ha già pensato. Vossia lo sapi, qual è il momento giusto, io aspetto, che vossia la parla. Ma basta, ti ho fatto un sista, non c'è premore. Sono prudente, e lo sono perché sono cosciente che ho messo la questione nelle migliori mani, le mani vossia, don lì. Messio Reci, sono Mauro Custino. Aveva consegnato un pacco, farà giro e farà sacco. Io ci resse che non mi poteva ricevere, perché vossia non mi ha detto niente. Torna domani. Vossia poi mi istruisce. Da come mai a combottare? Dopo da messa, passo da cimitero. Ci vai ogni domenica. E ogni domenica trovo la tomba bella pulita, con un mazzo di rose sopra, rose fresche a bocciolo. Io so chi provvede, lo so chi mensa tutta l'altra, c'ha questo pensiero, perciò aumenta la gratitudine, assomma la devozione. Sopra ogni cosa, sopra di mia vossia, don lì, può farne conto. Che è interessato al suo vetro, loro fanno il prezzo e poi versano il 10%. E per 3 anni stanno tranquilli. Dove è arruso il dottore dentista? Remanda. Semana dopo semana remanda. Si presenta ai picciotti con faccia piatusa e parlantina sciolta e d'ammocco. Come tanto fa solo un ammocco? Gli arruso la aveva, fammi tutto. È forse diverso? Perché dottore, l'auge, che può pensare, Bisogna dare un esempio. Prendere provvedimenti, ci vuole un esempio. C'è troppo carbone menzesciati, troppa mollezza. Ne vediamo quattro a sera. Oh, donna scendo da playa. Come pesci scoglio a Maghiero. Addosso gli hanno trovato umeri, labbri. Pesci donzella, pesci babbi. Iniziativa personale però. Un tenente carabiniere nuovo acquisto, scopa nuova. Solo polvere per aria. Per questo non è arrivato l'avvertimento. Agli avvocati ho già telefonato. Bisogna sostituirli ora. Anzi, direi aumentare. Idem ne levano quattro. Miau, ce ne abbiamo otto. I numeri ci sono e le figure pure. Iancelo e Melo ne hanno davato, ci sono svezzati ormai. Altri tre li prendiamo dai motocicletti, in tanti lo chiedono. Non vogliono fare scippie fino a 40 anni. E Filippo su Casimula e Calorio magari sono uno spreco. Misi a domandare volta a volta. Il giro è grosso, dolli. E prospera, e ci rende. I conti sono qua, allineati e coperti. I laponi aumentano, giorno dopo giorno a vista d'occhio. Di miele ce n'è quanto si vuole. E nuauci, e sappiamo fare buoni i lapunara. Però così, io parlo un latino da lì. Non si può andare avanti così. Voi assente. Non uscite di casa ora perché ho 7 mesi. Non date attenzione, ma anche i carusi. I picciotti sono valenti. Abbrancicassero che muralisci, ma senza chi gli state in testa. Io ce ne vedo so vai. Mai un'iniziativa, mai una risposta all'estero. Del resto lo sia. In botuò così. E ora che lei. E voi, vossia, ora che non gli dà l'indrizzo, si sentono sbanditi, abbandonati e spersi, cani bastoniati senza picchi. Ed è giunnata se cutuliano barro alla sala biliardo tra sbadigli e imbriacatori. Io parlo chiaro, parlo latino d'oggi. Con voi sono netta di pensieri, parole e fatti. Un padre può piangere una figlia per una vita sana, se può sgraggiare un cuore con l'ogna per una vita intera. Voi siete padre, ma siete dolirio. Con le vostre mani vi siete fatto dolirio, e alle mani di dolirio si affida la gente. Tra le mani di dolirio si congiungono i fatti. Se chiude una chianca, io vado a comprare la carne da un altro chianchiere. Se un lattoniere in serra la saracinesca, io porto l'auto da un altro. Ce ne sono tanti. Ma quando è dolirio che si fa assente? O no, trovo un altro dolirio che mi sia presente. Avvicinito. Già si sapeva, nessuna speranza, parole precise e decise a Milano, palme di mani allargate in Francia, teste chinate in Belgio, nessuna speranza, già si sapeva. E la coscienza del dopo accelera la rassegnazione. A Piacirida si risucò come una moloncella osule e a tagliarla chiù, chiureva l'occhio. E o cuscino, vrace tutto per lacrime. Nonostante chiesto io, per la disperazione di padre e madre vostra, di donna Mira, la carregai sopra e spardi gli ultimi gemiti, sospiri, sguardi, supplichi di quella vita piccina che si dimezzava a ogni giro orologio. E ora e non sento più tappiare basola. E non ferri andare ricchi o schiggiare per stanze. Ora la sera mi allaccia uno sconforto intimo. Ma lo tengo di canto per le ore notturne. e ripigliarlo la sera dopo. Tra una notte e l'altra di giorno io stavo dritta a letta e sbrigo le faccende di casa e tengo in ordine i libri, quelli contabili, i promemoria e do udienza a tutti invece vostra. Ciascun nome telefono, scrivo lettere, pizzini, ricevo gente, domandare essenziali, manuali e capomastri. E io che faccio? Do lì e eseguo, percorro la strada che fossi asterrato. Ma chi vai avanti? Io si fa stretta la via per due segnali e da sbarruco, perché oltre la strada s'ha da sterrare ancora. Questo è compito suo. Se lei non si mette all'opera, non c'è nulla che può fare. Chiamai ieri sera la figlia mezzana di Don Saverio Ficicchie, Samantha. La conosciste voi? La caruta spettognola e sapolose lingua. Ci siamo tenute in contatto e siamo diventate amiche. Mi stima, parla bene di me e Ficicchie. Mi disse che c'è uno a Milano, un vocazzaro, ma abile in affari. Dice che sta costruendo a Milano un grande villaggio provvisto di tutto. Progetto interessante, dice. Cerca soldi per questo. Qua i soldi ci stanno. I soldi a broce non ne hai mano. Dice che se a Bossia ci piace. I soldi. Piglia una sciata da fuori, in Svizzera. Da canciono culuri. E dopo fanno un salto a Milano, nella banca dei fratelli Ficicchia, prima del casa amante, disi puro Palermo, e chiamò a Teresa, a figlia giunnica di Don Calò. Don Calò si raccordò con i Ficicchia e s'accordò e ci aggiungì un dosso. A Palermo c'è uno che compare a costui di Milano, non è dell'ambiente, mai ben ambientato, uno che ne sa felice, uno che tiene in mano chiavi e maniglie per dare porta, puttocato, bottoni, magari cancelli di ferro. Costui si è messo a disposizione di Don Calò e della faccenda intera. Perciò hanno deciso, Don Calò e i Ficicchie, per un intervento grosso, ma rosso. Serafino Ficicchia ci disse a Don Calò: ci vuole qualcheruno all'interno che garantisca per noi e per i nostri piccioli. C'è nove cavallo chissu a Milano, chiese Don Calò, perché noi a Palermo ci abbiamo uno stalliere. Rispose Serafino Ficicchia: se non c'è nave ci facevo cattare. Ma se no, ven a dire che lo stalliere si prende a bada a palature e suo mugliere. E dopo si fece una rasata. I Ficicchia riunero la famiglia. Prese voce Don Saverio. Non è più tempo de avi e nannavi, ora i femmini c'hanno i scoli che sanno fare da punto. È tempo che prendano in mano gli interessi della famiglia. Questo affare lo porteranno avanti i femmini, una di ogni famiglia. Quando c'era portare un scusso, Don Calò lo trovò saggio e prudente. Per questo Samantha chiamò e cercò di me. Ho piacere che entri nel girozzo da lì. Ho il mandato di tutti, mascoli e femmini. Ma della zia Donna Mira non si può fare conto, perciò ho pensato a te, con il consenso di tutti, femmine e mascoli. Questo disse Samantha e questo io riporto. Lo sia me ne dà risposta. Entro 3 giorni Questa è la scadenza dei fratelli Picicchi. Passati 3 giorni, dicono, si rivolgono ad altri. Io non so se ne sono capace, ma se possia me ne rende capace. So crescita e dolirio. Chitto è ben fatto. La signora Donna Mira, vostra moglie, stanotte s'appasciò non lanzolo. Come ogni notte da 15 notti, questo ve l'ho già detto. Da 3 notti con rispetto parlano, se caga, magari non ho letto. Questo non ve l'hai detto. Merda liquida, cosa con rispetto parlano. Qua santi mi ricine capiglia. E al mattino afferra con le dita ciò che ha svacantato la notte, merda e piscio, con aspetto parranno. Sempre stia i capiddi, se ne spalma il viso come fosse una crema secca, assaria quel pozzo per tutta la casa. Non consente a nessuno di andarle vicino, nessuno ascolta. Come uno spirito squietato si strascina per tutte le stanze, poi... Questo non ve l'hai detto. Ma lo devo dire, vossia la sapere, si chiude in cucina e lì prepara pietanze pa' piccirite e poi da ricchia a bucite e stacchia e tiena, te tenenda, bene, mamma, tale, fante, fante, fante, tenne, bene, bene, me l'ambancio, bene, casa rifrida, ti tiena, ti tenenda, la mamma, io manto parecchi per non sentire. Ma la sua voce è sirena che impregna i muri, cacciantolia i soprammobili. Se smoncio nel rene a sentirla busciare così è una pena da lì. Poi da sicchietta e per un'ora e magari che sai calan silenzio ne stanzi curioso, perché nessuno aveva a me parlare. Ieri sono andata a guardare. Ho scavalcato il balcone e mi misi a tagliare dal finestrone. Aveva una sedia vuota davanti e cevava l'aria. Imboccava l'assenza da piccirida come da faceva. Quando era via, soffiava sopra ogni boccone e muoveva le labbra a sorrisi e a parole mammalucchine. Mi spuai col vomito sino a gettare fuori l'impotenza che faceva ruppo uno stomaco. Non c'è niente che fare, non si arricupiglia più. Il dottore Lo Iacono viene ogni mattina e ogni mattina mi ripete: la signora Donna Mira ha bisogno di cure specialistiche, la sapete da lì, non può più stare in questa casa, non se ne parla. C'hai detto sempre a signora Donna Mira, perché non esce. Una cosa che sta a dolirio, manca prospetto. Mangiava dalla ieri, mi si rapero l'occhio e visti l'occhio so, arredo cozzo, a fissare il passato, che solo idda guanta. Forse ha ragione il dottore. Forse per il suo bene. Lo Iacono dice che c'è una casa di cura attiata, una sapaggio, noi meglio persone che ne provincia. E ci credo, per quello che si paga. La signora Donna Mira ha visto tutto chi tu che ci serve. Può darsi che col tempo. Ma sicuro è un bene per lei. Eppure che possia, donna. Getti sui piatti della bilancia chi duca senti e pensa e chi duca c'è lì. e il risultato sarà comunque di buona pesata. Basile l'avvocato. La sperogli a facenne, le donne con la cavagna, ossia, mi calò a testa quando mi dessi appuntamento. Mi ricordò dell'incontro di Domi Sarredo. Lei me ne parlò a suo tempo. Si sono visti 4 giorni fa. Le elezioni al comune sono vicine oramai. I capi in testa dei quartieri. Trovare un po' solo, non assettarsi. Sino ad oggi le preferenze sono rialate alla bici, caffomma d'amici, niente hanno portato, solo rispetto e qualche scappellata. Ma messi insieme siamo una forza, disse Don Nicola Cavagna e gli altri a consentire. C'è il piano regolatore da approvare e i cavalieri, i costruttori, quelli che stanno in sella a Cavaggio Posebbi già hanno impiantato minestra e sono contenti che il condimento ce lo mettiamo noi. Sono parole di Don Nicola Cavagna. Perciò hanno deciso, aspettano solo il vostro consenso, donne, che tutti portano tutto a un massaro e a tutti quelli che gli sono curatoli. Questo massaro è appoggiato da Roma, direttamente da Imerodello. A Palermo hanno fatto così e ne hanno avuto soddisfazione tutti, disse Basile e mi guardò negli occhi. Io mi sono permessa a dire, e noi prendiamo d'esempio già fatti gli arrosi Palermo. Sicuro, Don Lirio vorrà fare a modo suo. E lei ci dice a Don Lirio, Casiddu chiama lasso, ce l'ho io in mano, disse l'avvocato e non me lassava l'occhio. Ci sono 20 posti di infermiere per spostare a Vittorio e 30 posti di netturbino e poi i concorsi. Bidelli, messi, uscieri, centralisti, pure i vigili urbani. E per gli affari diretti da Lirio, i cavalieri ci serviranno da lui in quota parte per tutto. Docemento, zine manichi dei potti e il personale pure in quota parte dei manuali, zine capicanteri. Questi sono gli affari d'Olidio, affari piccioli, affari cumano. Dopo io calai la mano sul tavolo in un colpo solo. Non solo, sciapazzeri e giornatari, Don Lirio vuole entrare in quota parte pure per i primari d'ospedale, per ingegneri e professori, per direttori di banca, in quota parte pure al comune, per funzionari ed assessori. Dopo, l'avvocato Basile, questo non è affare che posso trattare io, chi sta è facenna di Don Nicola Cavagna e di tutto il comitato. Giusto, c'eresse... Noi siamo intermediari, prepariamo il terreno. L'affare Rossi, il tratto dei pezzi Rossi. Così mi sono permessa a dire. Non so se ho fatto male, ma Vossia mi insegnò che Don Lirio non è pupo d'un coppo. Magari Vossia ci ha vissuto a città, avvocati, ingegneri, commercialisti, non solo una cova a cavagna. Qui siamo in tanti. C'è un'organizzazione, o quartieri è grande, in 20.000 almeno. Per timore o per rispetto, chiusi nella cabina, mettono croce ogni. Don Lirio comanda, Don Lirio consiglia. Ho inteso che Mimmo Basile sarà assessore ai lavori pubblici. E così Nicola Cavagna s'ammucca un meglio mozzo con i canni. Questo non va bene. Vossia è degno di sedere alla destra do capotavo senza ruffiane e senza ali. Vossì, che cavaliere, sindaco, assessore. Così si tratta con Don Lirio. E quando tratta Don Lirio, Don Lirio detta leggi, ci penserò io a sprovolazzare sta malsamatudine. Lo allargherò io, sto cuore stretto, per un dolore che non porta refi. E tra 3 giorni vi metterete il vestito gessato e l'orologio e sopra i spaggi, cappotti, camicia nuovo, fiammante, e arriverete con il Mercedes grigio metallizzato, con un autista allacattato, più che il più elegante tra loro. Sarà allargare, ma asceggiare, a vedere Don Lirio, che tornò Don Lirio. Che ci giro intorno, parto per dire, ma poi vado da bordo. Per giorni e giorni ho messo in fila parole che all'ultimo si sfiatano, e intanto mi dico che ve lo devo dire, e intanto poi penso che su pensieri che si assommano ad altri, e intanto stasera ho deciso che manco macerno e vado dritta al discorso. Quando morì la Piccirid, io mi sono presa in carico il conforto di tutti, pure quello di Masino. Lui stravedeva per la sorella, panica. Ho passato intere notti a vederlo piangere, abbiato da un funniletto. E una notte, all'intrasat, infilò la mano tra le mie cosce, le mie mani, quando voglio tenaglie, gli serrarono i polsi fino a fargli stirare la muscolatura dalla faccia. Ho intenzioni serie, mi disse. Dillo a tuo padre, proposi. Decillo tu, mi fece. E io oggi lo dico. Se vossì ha per Masino altre intenzioni, se volete, posso fargli da amante, non c'è scolzo per me. No, ma sentisse, Cagliot. Per Masino ho identico affetto, comodo solo a Prati. Se la passione che lui prova per me ad essere da intralcio per quello che vossia ha prospettato per lui, io gli apro le porte. Tra me e lei, Don Lì, c'è qualcosa di più intrinseco, di pudori e vergogni. Ma se possia non ha dato parola, se non ha altri scopi o progetti, se mi vuole tenere legata per nuora, allora io mi faccio acqua sorgiva, e questo vi dico. Lui è donna Mira, ha cresciuto a Masino come un cacanito. No, guattelli. Tutte sono buone non corro, tutte ci fanno bellicchi e ballacchi e foro quattieri. Gli amici lo cercano perché io cabono o palloni, gira con macchine grosse, i renare a zacchetta non mancano mai. Ma l'avete tenuto a distanza da interessi affari, quindi casa fatto in avanti e cain. Ma chi so, Masino, gli è 9 giorni, io c'ero nascissi a fare da burrascio un viaggio con tanto di cricchi e speroni, e vossia un sapi. Ma c'è dell'altro, e anche questo ve lo voglio dire. Moglie Amasino, io passerei con sauto un sicco dalla camera più comoda dei creati al piano nobile della casa qua, a tagli vossia. Moglie Amasino, quando mi occupo delle faccende di casa, sono nuora fasciotola. quando sbrigo gli affari di famiglia, sono nuora nusciosa. Quando mi prendo cura di lei, Dolly, sono nuora affettuosa. Tutti a consentire, ognuno ad approvare. Io ho detto, e capo giuro, mi è costata fatica. Ora tocca a lei, Dolly. I tassi sopra la bilancia, quella che sono e posso diventare, su un piatto mara puttana e senza partito, sull'altro mara sposata e nuora d'Olivio. Come va sia Pisa, è sempre di buona pesata. Pare una macchinetta, ognuno gli dà retta pure se non schiglia, e voci non niente anche a chi puso, sempre il sorriso mette avanti, è una tagliatura che ti imbalza, ma anche a chi fura. Presidente della banca dei fratelli Picicchi, amministratore delegato plenipotenziario della FIC. Sta per Picicchi, anche da lei non l'aveva caputo, della Fitch, la società che raccoglie gli interessi dei fratelli Picicchi, che ha sede ad Amburgo, Lisbona, Caracas, eppure a Gran Michele, anche da lei chi giro. Chi stiamo con Samantha Picicchi, mentre mi portava da suo marito alla Fratres, la società finanziaria dei fratelli Picicchi. Fratres, come fratelli, i fratelli Picicchi, gli ha chi impunemente, un una palazzina intera, o c'è in Genovano. Usciere, impiegate, segretario, chi appareva una clinica. E se manda da Itre, si muoveva a suo agio, come un angino di mare, come un mondo fumaggio. Tutti la riverivano, certo. Figlia del capo, moglie del presidente, lei tutti trattava con discrezione e affabilità in chiacchi film. Conosce l'inglese e parla spedita e a modo. Io posso dirlo, quando gli aveva scoli, voti alti in inglese. Ha predisposizione per le lingue, diceva l'insegnante a mia madre. Me ma e me pa, quanto tempo che ne vo trovo. Riprenderò l'inglese. Mi metto a parlare inglese. I will speak English very well. Handle Giacomo, se ce la faccio. Sull'aereo presi tanti pizzini e li scrissi ogni cosa che d'importante disse. Dopo con quattro testi in via quando ne stava con Bossia, ma scusa, attento, sono precetti, don lì, indicano una rotta. Voi avete realizzato laggiù in Sicilia inconsapevolmente un'accumulazione primaria del capitale. Chiarrizzo Pila, assenteli queste parole combinate insieme. Avete realizzato laggiù in Sicilia un'accumulazione primaria del capitale sorprendente e rapida. Ciascuno ha fatto da sé. Ora i capitali non dovranno scontrarsi, ma confluire. Non disperdere le energie, concentrare e indirizzare l'energia. Questo dovrà fare Don Lirio. Questo compito gli affidiamo per Catania e per tutta la Sicilia orientale. In questo avrà l'appoggio dei fratelli Picicchia e in altre sedi io garantirò per tutti. Attendo da Don Lirio una risposta. Gli ho già dato risposta. Disponibilità massima. E non c'è controordine, vero Don Lì? Ma c'è dell'altro. Seccuso come punti lesne. Laggiù in Sicilia le famiglie sono una potenza, hanno cultura comune, mentalità comune, linguaggio comune, organizzazione comune e controllo del territorio. Gliene squadrò anch'io. La gerarchia è militare. Militari, metodi, preparazione militare quando c'è da agire. Laggiù in Sicilia c'è uno stato nascente. Le famiglie nell'insieme hanno la potenza di uno Stato, ma non ancora il potere dello Stato. Ci vuol poco e manca tanto. Manca la sovranità dello Stato. Ci vuole la coscienza d'essere Stato. E da qui la soggezione, la diffidenza, il timore, l'estraneità di fronte allo Stato ufficiale. E nascono le intemperanze. Intemperanze. Chi è che poseri intemperanze? Mazzatini, magni casato, intemperanze. Chi avrà spavaldini? Eccomi, numerata così. Il vostro Stato, quando sarà cosciente, quando sarà sovrano, dovrà accettare un confronto continuo e serrato con lo Stato ufficiale. Ci sono interessi comuni, metodi comuni, finalità comuni e una civiltà in comune da salvaguardare. Ah, che destino magnifico! Ci sono due stati, avanzano paralleli come i binari di una ferrovia. Bisogna solo connetterli con traversine fitte, così potrà viaggiare spedito, inarrestabile, il treno dei nostri interessi. Già che quadro, già che pentola! Ma io ci rumannai, e su questo treno che posto avrà Don Livio? Posto di comando, chi tu mi ha risposto? Il posto di macchinista, macchinista conduttore. Non so sfornosciare così, mi prendo pure io di tutto. Cioè penso io a fare tagliare da sopra. Mentre che c'era, facendo strada perché passai dalla clinica, donna Mira mi accolse come sempre, faccia tragica, palme delle mani aperte, la voce più schiggente ancora, come la sirena di mezzodì. Papola da Civita, da San Nollo e San Berillo, tra le ati, con vini, con sapresenta, la moglie a rosa del tuo corno di me figlio, la bottana di me marito Dallidio, papola da Civita, da San Nollo e San Berillo, riverita la troia, da sa bella famiglia. E i vecchi e le matrone presenti, a vociare mi darreri, con risate stentate, che bordello. La verità si conosce da embriachi e da picciriggi. Donna Mira col tempo assume i fattizi da una picciriggia embriaca. Questo non porta bene, Don Lì. No, perché non regge. C'è mai più uno stomaco, e che più si va avanti meno regge il rispetto. Bisogna mettere un punto a questo andazzo. Vossia che ne pensa? Dolly, a me basta un gesto, una cala di testa. Lo vedo io a tutto. C'è un infermiere, un'agnazioni. In fondo, che s'aspetta, donna Mira? Rozzetto, conforto, a bella morti. Intona a perfezione ai suoi occhi e la sua carnagione, signora, disse l'orefice, e Samantha approvò. Magari ni chisso ne sapremo sendere. C'era a Milano, mi feci passare una visita da uno specialista. Mi ci portò Samantha, mi viste palle. Sono incinta, Don Lì, per la seconda volta in 3 anni. Ma stavolta non potemo babucchiare a Masino, che ci contamo, Che magari chi su è 7.000 e chi fosse una iatta presciarola. Sono più di 2 mesi che non dormo con Masino. Non corrispondono gli orari. Io appresso gli affari della famiglia, io appresso palloni. D'altronde, questo ci ha giovato. Abbiamo goduto di libertà. In che come se ne ha nascialato, Dolly? Ma ora, che c'è conto a Masino? Che manzo manzo all'aria? Che spuntò all'improvviso l'arcangelo Gabriele? E tu che celebri a tuo figlio? Che le parole di sua madre avevano in fondo la saggezza e il tormento dei pazzi. C'è una sola strada e devi affrontarla. Io starò a guardarti nel mentre ti avvii materialla. Aspetta a te. Ti restano sempre 2 figli, Dolly. Lirio promette bene, me lo ripeti spesso, mentre di sguardi lo circondi, e io mi accorgo, come sono ammanato uno, che abbrami da abbracciarlo diversamente e da come fa un nonno affettuoso. E Masino. Perché questo lo chiamiamo Masino, in memoria a suo padre. Lo alleverai da figlio, ti riprenderai il posto di padre, perché chi do t'attocca? E non da fare crescere cronchi sopra la coscienza, non da mettere scruppo. Sa fare chi duca sa fare, e sa da fare presto, e sa da fare pulito. Tu ci sai ire, pulito e rapido. Donna, se cosa è stato un maestro. Avranno ancora occasioni. I vecchi sdentati da clinica, da ridere e strepetiare. Buttali da lì, buttali da lì. Ottana, ghiassi? Ma solo il delirio. Fuori io. Chi insomma tocca? Tocca mini cazziate, io a raccogliere le pezze, gnonignone. Intanto calma. Strategia ci vuole. E una sua famiglia sono l'unica all'altezza del compito. Per casa giocare in cortile il moccio al naso fluento, incrustato e causa cotta, rinocchi inchiaiati, gli occhi aperti e mobili. Li ho visti. Quanto potevano avere? 10, 11 anni. Ero sespettante, non li sta davanno. Pensavo, gli serviranno in seguito. E invece, già ti servivano. Ti serviva la loro bocca che odora di chewing gum appena sputato, devastanti! Ti servivano piccoli glutei lisci e sodi come un puma gelato, tra cui ritrovare il gemito di un novello vigore. E mentre ti curavi di uno, che faceva l'altro, da lì? Stava a tagliare? Con lo sguardo d'armento, occhi che forano il nulla. E dire che ho sospettato. Vizi privati, già come sbagliava. Perché non esiste nulla di privato che non mi riguardi nella vita e dall'irio. E porossa cuccia, me la iamponerei io. Insomma, tocca. Manderemo 100 milioni ciascuno alle due famiglie e alla vista di tutti, note sul tabanco. Segno l'umanità, dopo il boni, dolio. E donna potenti, avi, tu magari. La donazione sarà fatta per l'armozza e suo figlio Masino. Intanto chiamerò il vicequestore, amico mio. Mi presenterò a lui da brava cittadina. Gli dirò di aver notato mi ciubatto che spatteva caramelli a via Bettiore a picciriti mascoli e femmini. Le prove le troverà lui come sempre ha fatto. Tale quanto mi costa lo sbrio della minchia cagliotta. È un segnale questo tra tanti. T'ha fatto vecchio, Valerio, vecchio di testa, di modi e maniere, vecchio la minchia. Tu sei vecchio, Valerio, e come i vecchi hai perso il senso delle proporzioni. Hai perso la buona passata. Qui si viaggia a mille, come un treno super veloce, siamo una potenza. Un'azienda riconosciuta, legittima, ufficiale, con mille diramazioni ed in continua crescita, in rapida espansione. E in questo scenario, nassatila brusciata di colori luminosi, tu che fai? Dovete giocare che pupi, come fosse un agevo. Sei vecchio da lì e t'ha fare da canto. Chiamerò il notaio. Mi farai procura di tutto e per tutto. Per i tuoi vizi e stravizi non ti preoccupare. Non ti mancheranno renare in sacchetta, potrai seguitare. A giocare ci appetti la restante parte. Lasciala a me. Chissà, ma tocca. Per una pochi mesi andrai in villeggiatura. Partirai con Angelo e Melo, luogotenenti fidati. Seguro Iddi t'hanno retto bordo nell'impresa. Quando torni, però, sarai da solo. Anasperi! E tutto questo dopo l'Epifania. Perché a Natale, come ogni anno, vengono i figli. E come ogni anno andremo alla casa di Taormina. Si ricompone la famiglia modello. Speriamo che ci sia il sole laggiù in Sicilia. Qui in Svizzera è da settembre che non vediamo il sole. Così scrisse Masino e Lirio firmò. Se questo è il loro desiderio, ci facciamo a trovare il sole, verde lì. A Taormina racconterai a Lirio come diventasti Don Lirio. Gli piace ascoltarti. degli affari più complessi gli parlerò io. Edu capisce a volo. Ha un destino tracciato. Oh, mo de puso. Oh, mi cumanno. Lirio, la seconda, lo scava profondo dinanzi a sé il destino. L'altro giorno per telefono mi ha dettato i suoi programmi. Laurea in economia, master alla Bocconi, 2 anni di apprendistato in giro per il mondo. Quando gli consegneremo gli affari di famiglia, lui li farà suonare come le campane del Duomo. Masino invece, ma cosa spia chi duca affari? Il suo apprendistato lo fa nella vita e nella mente. Manda email che ci stai uri e uri a leggirli, fitte di ragionamenti, dense di nomi di filosofi e di poeti. È così difficile seguirlo. T'allinchi cori e menti mentre lo segui. Che figli che avemo! Abbiamo avuto il meglio. Daremo loro il meglio. E magari chiossai. Penso io a nettare sto pezzicanni dalle incrostazioni. Provvedo io a eliminare sopra sto pezzicanni le incrostazioni. L'amo a fare pulito sto pezzicanni. Ce vai io cautelosa, Tolli? Ti piace così? Sei contento? Che sono tornata. Come stata lì? Meglio, molto meglio. Quando lo rivedremo tra noi, prima di quanto si immagini. Domandavano tutti a Ginevra come se ci unisse un legame di sangue, come una grande famiglia allargata. Ce n'era almeno uno in rappresentanza di ognuno. Riunione dopo riunione, però, cangiano i facci. Chi di dei tempi antichi? Dei tempi tuoi, da lì? Chi è un giorno da verità, in pensione forzata, con tan funno da letto o su una sedia a rotelle. C'erano solo Hakan il Turco, Dimitri da Kiev, Bastian da Marsiglia, o Pidianculo francese, come lo chiami tu. E c'erano anche i Ficicchia, Serafino e Sciaverio, con facci allegri come do 2 novembre. Quelle che non cambiano sono le facce di consulenti, banchieri, manager, avvocati, commercialisti, intermediari. Ad ogni riunione se ne aggiungono altri, tanti altri, in caso non ne eseccito. Venne pure mio figlio Livio per seguire il convegno organizzato dal nostro gruppo Finanza e Mercato Globale. Sull'argomento sta preparando la tesi. Seguiva tutti in diretta, tedeschi, francesi, inglesi, americani, si rideva ritto, caiamma cavallo, lo sguardo a mezz'aria che calava soltanto per prendere appunti. Ha il polso del comando, ma del comando tiene pure il fascino. Prima di ripartire per Oxford mi bisbigliò all'orecchio: sanno 4 cazzate e con queste pretendono di controllare gli affari del mondo. Ci pensano ancora con berretta, scoppette e le scarpe di pelo. Vi farò vedere io chi siamo. Che ne pensa mio nonno Don Lirio? Tu vai avanti, imposta come credi, gli dissi. Alla fine ci mettiamo per marchio l'etichetta Don Lirio. Lui mi guardò come quando era piccino. E tu che ne pensi? Io gli risposi come da mamma a Piccirillo. Io al momento dirigo i lavori, a lavori ultimati, quando tu sarai pronto, mi farò di canto. Mi rese una tagliata, ma che richiesta è Piccitto? E un bassoni, che era diverso dal bacio di un figlio. Se non fosse Marci, lo potessi a mio figlio, eppure da madre. Che ne pensi da lì? Ne stampasse un paro di corna, una corna speciale, corna placcata in oro 24 carati, chissi tra altre, d'argento, da cartapesta, da zaro, tra corna da corno. Pii, e chi è cornuto dal Lirio? Si è cornuto, crucifici corna a Don Lirio, sua madre, a Zaranna Franchina. Io mi ricordo quando passava per strada, 1,30 m per 1,30 m, dimensioni da scatola di imballaggio. Se qualcuno ci voleva zoccare, prima ce l'aveva a trovare. E allora, chi ha fatto le corna Don Lirio? Le sorelle? Che vi erano carzarate in casa. Per accostarsi a loro non già essere nasciuto manco una minchia collare. E crucifici corna a Don Lirio. Donna Mira? La prima moglie? Scanzatemi, devota com'era, se te faceva un pompino si faceva sciacquariare a bocca con l'acqua benedetta. E allora chi resta che ce l'ha fatto i corna a Don Lirio? Forse che zamai, ma chi va pensando? Mara? La seconda moglie? Sei un cornuto da primato, Don Lirio. Sai quante miglia la mania toste mano? Ho perso il conto. Sai quanti cazzi ha insalivato la mia bocca? Non li tengo più in mente da anni. Tutti, i picciotti, i professionisti, i commercianti, l'avvocato, i commercialisti, i politici, i parrini, parroci e monsignori, in sede e fuori sede, tutti hanno avuto almeno una volta una parte di me. Una tant'anni n'ha saputo niente. Niente hai sospettato! Allenarsi ad un piacere continuo, lui e mia madre cibarsi di languori estremi, e piangevo in silenzio immaginando che un giorno anch'io avrei provato quei fremiti, gli stessi che mia madre spandeva per l'aria, per tutta la casa. Ma che il mio guanto era pronto a riceverlo il dito, ma la punta del dito non riusciva a raggiungere la punta del guanto. Certe volte si fermava ad una distanza invisibile ed allora si scotevano i muscoli, aumentava il respiro, ma il fremito, quello che vibrava a mia madre, quello mai che giungesse. E allora cercavo e provavo ancora e tentavo e cercavo ancora. Ti è piaciuto conto, Dolly? Sono racconti che fanno bollire il sangue. A proposito, a minchia chi dici? Ancora t'attisa? Ti dà soddisfazione l'infermiera Elvira, con smanettate e pompini quando la sente dura? Usa sezzoni, mi costa 150 euro a prestazione. Il compenso dovuto alla disponibilità. Da spoppare c'è l'osso, ambezzi i canni. Tale, ti risi una mungiunaria. Ti avevo promesso corna speciali, corna d'oro e splendenti, corna di figlio. Ma con tutte ste ciolle che n'aiuto è venuto, chi può dire che proprio la tua ha sputato il seme di lirio e masino? Dolly, chi può dirlo? Ti lascio nel dubbio. Così? Siamo giunti al capolinea, Dolly. Tu ora scendi. Io prenderò la corsa che mi riporta indietro. Ma accattai tutti i biglietti. Il viaggio ritroso Voglio farlo da sola. Devo farlo da sola. Mi sento svuotata. Come se tutto fosse stato un sogno. Ambrosiatura è che ho sognato dentro il sogno di un altro. Ora non ho più niente in mano. Manchi non marabobanchi lotto. Senza di te più non ha senso. Era il mio specchio, Dolly. Lo specchio che mi rimandava l'immagine e mi confortava. Mi dava certezza che tutto era fatto nel giusto. Li ho visti, gli occhi invetrati, mentre gettavi sguardi sopra di sta vestina. Ho fatto fatica a trovarla ammucciata sotto i camici. Una reliquia, da lì, come te la consegnai allora, manca fasciste lavari. Lo so, l'ho sempre saputo, che non sei stato tu a dare mandato per mio padre e mia madre. Tu volevi l'onnipotenza, ne volevi sottamise. Così hai lasciato credere che fossi stato tu a mia e a tutto quatteri. E io ci ho creduto. Ho dovuto crederci. Pur sei cosciente che tu non c'entravi. Partirò domani. Disperderò le tracce. Ho predisposto ogni cosa. Da domani Livio avrà tutto in mano. Continuerà la razza. Con tuo figlio e nipote. Anche se non t'è nipote. E figlio neppure. Razza bastarda, Dolly? Ma ora mi sento svuotata. Non è stata vendetta. Ma se no, Stura, dovrei godere il trionfo. Cos'è stato allora? Forse è vero. Io ho fondato la mia causa sul nulla. E fra i tanti nulla possibili, io ho scelto il meglio. Ho scelto te. Ieri sera ho raccontato a Lirio e Masino ogni cosa. A ciascuno di loro separatamente. La sua porzione di storia. Spalle larghe a Masino. Lirio invece strette e fragili. Quando finì di raccontargli ogni cosa, Lirio mi guardò per un tempo che non c'era orologio. Poteva pesare, tanto era gravoso, e ad ogni sguardo stava appuntato uno smarrimento, e da ogni sbarruamento pendeva una richiesta d'aiuto. Ma le labbra erano stirate e dalla fessura appariva gratitudine per me e ammirazione per me, per aver sempre corso i tempi per aver intuito prima gli altri, perché gli consegno integro un comando al passo coi tempi. Quando andai da Masino, invece, lo trovai disteso sul letto. Ad ogni passo del mio racconto, il suo busto scattava come costretto da una ruota dentale, finché alla fine la sua testa si ritrovò tra i ginocchi. E allora, come una molla, balzò e scappò per chi la sbombegare noces. Restai da sola nella stanza, china di libri. Ce n'era uno sul tavolo. Lo aprì e lessi la prima frase. Io ho fondato la mia causa su lui. Mi prese improvviso un capogiro violento. Dovetti sedermi, ma non riuscivo a staccarmi dal libro. Intanto sfogliavo le pagine e balbettavo parole che messe insieme non capivo. E giunta alla fine lessi la frase in chiusura. Io ho fondato la mia causa sul nulla. Tornai indietro per vedere, confrontare una sillaba diversa, una lettera che non combinava. No, due parentesi uguali e dentro parole combinate in pensieri. Identico per me. Due parentesi uguali e dentro fatti, persone, parole combinate insieme a costruire 30 anni, gli anni passati qui, gli anni passati con te, Don Lirio. Mi arrampicavo su quelle parentesi e mi pareva da chiamare i mura lisci. Mi sconcertavano quelle parole, erano le mie, nell'intimo, ma non le capivo. La vertigine montava, dovetti sdraiarmi sul letto. Masino tornò, si lasciò cadere sulla poltrona. Lo sentivo sereno, acquietato, ma non lo guardavo. Il mio sguardo era fisso su quella sequenza che scorreva davanti ai miei occhi. Io ho fondato la mia causa su nulla. E da oggi potrò ripassare nella memoria, passo passo, punto a punto, questi 30 anni, al setaccio di una nuova coscienza. Io ho fondato la mia causa sul nulla. Potrò rinfrancarmi anche in futuro di una coscienza rinnovata. Fonderò la mia causa sul nulla consapevolmente. Ce la farò. Sì. Io fonderò la mia causa sul nulla.